fa re, do re, mi, mi fa mi re, do si. Si re fa si re si fa re, do re, mi, mi fa mi re, do si. Se vedrai che farò, mirabolanti parole dirò, interessanti motivi saprò cantare. Suggeritore il cuore sarà, e la mia voce ripeter saprà, improvvisate canzoni così d'amore. Refalà, con le note ben scherzar, refalà, mi diverte più di studiar, fa fa fa, senti questa scala che va giù. Dice mamma devi studiar, dice papà non ti sciupar, ma piace tanto a me ritmo. Fa, fa, sol, la, si.